Ora 7:49 secondi primi. Eccoci qua. Studi di Rock FM freschini stamane. Buongiorno, vi arriva dalla voce dell'Ariele. In regia, la parte tecnica, il nostro buon Spadino, in attesa dell'arrivo anche quest'oggi della ciliegina sulla torta di questa trasmissione radiofonica, Roberto Fricantoni. La trasmissione che sta per cominciare si chiama Pane, Burro e Rock'n'Roll, e nello specifico in questo mercoledì 19 di dicembre andremo ad affrontare la puntata 149. Ciao Ramona, sì, sei la prima. Una buona giornata dall'Ariele. Questa è la nostra sigla. Pane, burro e rock and roll. La miglior colazione in circolazione. La tua colazione rock. Sembrava un rap. Pane, burro e rock and roll. Ogni giorno sulle frequenze di Rock FM. E te mi curiosità. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Non passa giorno che io non sia veramente orgoglioso di questa sigla, eh? Guarda che è carina, eh? Su aria di Ian Dury, Sex, Drugs and Rock and Roll. Così, noi l'abbiamo trasformata in pane, burro e rock and roll. Noi ci siamo pronti. Ragazzi, che freddo. Posso lamentarmi al microfono, che freddo. Voi che vi state recando alla vostra autovettura, ce l'avete il grattino per togliere il ghiaccio dal lunotto anteriore? E non fate come l'Ariele. Io sono solito togliere un centimetro quadrato, un quadrato di 5 centimetri fondamentalmente, e guido per il primo quarto d'ora solo con un occhio infilato in quel buchino lì. Però è veramente stupido farlo. Non fatelo voi. Già che ci siete, toglietelo tutto il ghiaccio, sennò non vedete dove state andando. Questi sono i consigli puntuali e precisi di Pane, Burro e Rock and Roll, che nella lotta ai grandi network ha deciso di fare le pulci anche a Isoradio. A Isoradio li daranno dei consigli così, sì, magari un po' più pomposi, capito? Invece la nostra è una comunicazione più diretta e magari è più utile detto da noi. Sbrinate il vetro della vostra autovettura, sennò non vedete dove andate. Sembra un ottimo consiglio, Spadino, eh? Diamo senso civico a questa trasmissione radiofonica. Vi va? Va bene. Sarà un mercoledì da leoni, se restate con noi. Si comincia con i Faces. Ottimo inizio, perché questa è Rock Me. Noi siamo a Rock FM, l'intenzione è quella di roccheggiarvi, sì, decisamente sì. Yeah. barba ti va di roccheggiarmi? Così cantava l'intrigante Rod Stewart con i suoi Faces. Honey, won't you rock me? Miele, vuoi roccheggiare? Meglio sbarba, però, apprezzerebbe il maestro Antoni. 7-8 minuti primi. Oggi è durina, ragazzi, è durina, sì. Chissà se ce la farò arrivare fino alle 9. Ma sicuramente grande apporto mi verrà dato dallo schermo del mio computer di destra, quello che mi mostra i vostri messaggi in diretta. Abbiamo un numero di riferimento da darvi. Oggi belli attivi vi vedo, continuano a scrollare SMS così. Già i primi minuti fa sempre piacere. Il numero da comporre per entrare lì dentro, lì in quel computer lì, 335-100-7777, questa è la coordinata via SMS. Velocemente vi ricordo anche la casella di posta elettronica, che da ieri si è ufficialmente trasformata nell'incubo peggiore dell'Ariele, perché stanno arrivando le richieste del calendario 2008, l'anno della svolta. Notavo che qualcuno in maniera sarcastica ha scritto anche: caro Ariel, vorrei tanto che il calendario 2008 arrivasse a me, ma più che altro ti scrivo perché so che ti manda in sbattimento e sono curioso di vedere se mai ce la farai a farmelo arrivare. Maledetti. Ringrazio anche Isaac Rizzi, che ieri ha passato metà della sua giornata alle poste per cercare di capire come organizzare il tutto e soprattutto come diventare ricchi allo stesso momento, perché l'obiettivo principale poi ovviamente è sempre quello. Bravi, guardali lì, tutti già belli svegli a quest'ora. Saluto in primis Filippo, che inizia l'SMS dicendo: viva noi della prima mezz'ora. Ciao Ariele, la nicchia vincerà. Bravo. Sì. Mi piace questa cosa dell'ascolto frazionato, per il quale ognuno comunque ci tiene al suo orario d'ascolto, no? Filippo è della prima mezz'ora, bravo. Poi lo sai, Filippo, che siete i miei preferiti, voi della prima mezz'ora. La canzone di Natale non passerà nella prima mezz'ora oggi, ma nella seconda, quindi toccherà domani a voi primini. Io mi sento un filo svenire, se posso confessarlo, quindi quasi quasi, Spadino, se ti va, manderei la canzone successiva. Così svengo un attimo qui sul mixer e poi vediamo se mi riprendo. Animals, don't let me be misunderstood. Svengo. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my shit, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Mer mercoledì 19 di dicembre, studi di Rock FM, tutto va bene. Wednesday, amici, la redazione internazionale ci segnala che oggi è Wednesday. È mercoledì, sì. Come sta Roberto? È andato bene il viaggio? Ottimamente, sono in gran forma. Ma viaggia in prima classe o in seconda classe? Rigorosamente in terza classe per risparmiare sullo stipendio di 15 euro a settimana che mi passate. Ho visto anche la valigia di cartone, molto bella quest'oggi. Sì, è molto folk, fa molto emigrante. Mi piace questo ruolo di emigrante. Almanacco del giorno che fu, grazie Spadino per la sigla. 19 dicembre del 1972, l'Apollo 17 compie l'ultima missione dell'uomo sulla Luna, rientrando sulla Terra. Che peccato. Potevano restare là. Beh, però un po' di senso pratico, i piedi per terra, è vero. Beh, passiamo ad altro. 1974. L'Altair 8800. Sì. O Altair, 8800, il primo personal computer viene finalmente messo in vendita. Oh, il primo bello computer, dunque, personale, fa la sua comparsa nel 1974, il 19 dicembre. Sì. Mentre nel 1981 la Spagna adotta la sua bandiera attuale. Sì, la sua bandiera attuale. Giovane? Sì, giovane, giovane. Cosa avevano scelta prima? Avevano le corna del toro, sì. La coda e queste, la paela. Olè. Vuole dire altre, le nacchere oppure sì. il flamenco, che radio qualunquista, il tango, che trasmissione il qualunquista, maestro. No, assolutamente. Farei un passo di tango con lei, ma prima voglio chiudere l'almanacco di quest'oggi. Accidenti. Era il 19 dicembre del 97 quando uscì nelle sale cinematografiche Titanic. Ho studiato l'inglese. Ah, la pronuncia è impeccabile. Titanic, il film che ha totalizzato il maggior incasso mondiale di tutti i tempi, pari, senta qua, a 1.850.300.000 dollari. Starebbero comodo, sa? Anche a me, anche di me. Avrei alcuni progettini che si potrebbero realizzare. Tipo costruirmi un Titanic tutto mio. E andare sui navigli. Sì, e andare sui navigli. Ecco, un'idea che non avevo valutato, ma è molto molto interessante. Che bello viaggiare con la fantasia di Fricantoni. E viva il Titanic! Working all night long. Put my daughter on my knee. And she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, shoulder. She said, "Tell me all the trouble." You know what she said? She said, You're a fool to cry, and it makes me wonder why. so much, babe. Per farlo alla Jagger, capito? I'm a fool, bye bye. Rolling Stones, è così che sconvolgiamo gli ormoni delle nostre radioascoltatrici. Sbarbe. Fool to cry. C'ho la stupidera stamattina. O svengo, o c'ho la stupidera. Guarda te. Belli attivi, belli pronti, belli freschi al nostro numero di SMS. Diamo un'occhiata a quello che sta accadendo. Ringrazio Lore, ottima segnalazione. In controprogrammazione agli amici di Isoradio, consigliamo, per grattare il ghiaccio dalla finestra della vostra autovettura, perché il cruscotto è che è lì sotto. Caravelli, come si chiama il vetro della macchina davanti? Arabrezza. E c'ho una redazione a disposizione. Me lo chiamavo vetro davanti, ma non era al massimo. Per sgrattare il parabrezza potete usare la musica, la custodia della musica set aperta in due. Questo Isoradio non ve lo dirà mai, eh. Lo diciamo noi di rock. È molto rock, molto rock. Grazie Lore, fantastico. Si chiede chissà se vanno bene anche quelle dei CD. Sì, io ho usato anche quelle dei CD a volte. Dobbiamo strombazzare a manetta, massima solidarietà alla cover band fiorentina dei Rammstein, che già ieri ci avevano segnalato un furto di tutta la loro strumentazione. Vi siamo vicini, ragazzi. Non vi prestiamo nulla, ma vi siamo vicini. Solidarietà. Rappresentata da Andrea, che ci scrive: buona giornata in ogni caso. Apprezzo molto il taglio rock che stiamo dando a questo Natale 2007, il primo vero Natale rock della storia, grazie a noi di Pane, Burro e Rock and Roll che ce lo siamo inventati. Mi piace lo spirito col quale lo affrontiamo, no? Perché ci sono dei punti fissi dell'essere rocker. Ci si lamenta, e qua ci eravamo arrivati. Fino a qualche tempo fa ci si lamentava del Natale, adesso neanche più di tanto, perché tanto è diventato un Natale rock. Mi piace tantissimo questa segnalazione. Ormai per me il Natale non è più Natale da quando non c'è più la pubblicità della Coca-Cola, in cui la gente canta "Vorrei cantare insieme a voi", formando un abete. Stiamo diventando alternativi all'alternativo, e questo mi piace è molto Pane, Burro e Rock and Roll, essere in alternativa all'alternativo. Gli ultimi, via, questo scrive, ma vabbè, Ale chiede come fare ad avere il calendario. Allora, scrivete una mail ad ariel@radiorockfm.com, rispondo all'altro, è vero, non vi ho ancora risposto, ma le mail ce le ho tutte. Boom. Francesco da Pisa, scusa ma il calendario è horror? Ci sei tu in costume da bagno? No, io sono nudo nel mese di novembre. Interplanetary Remix, stage 444. Questo per tranquillizzarvi. Christmas time is... De va, i Beatles. Christmas time is here again. Christmas time. Ah, tra l'altro, è nudo anche Fercantoni a novembre, scusa. Ci tenevo a dirlo a Francesco. Abbiamo solo il quadratino della censura. Quadratino, quadratone. You know when Christmas time is here again. Oh, you tea spell out. Si chiamano Who. Yeah. La carica del mattino, la vostra colazione preferita. Gravelli, mi viene un dubbio, ma sei lì perché di là fa freddo. I'm se la giornata, ma se ci aggiungi rock and roll diventa una figata.